Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Topic. Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Scusate mamma, volevo sapere, ho letto il fatto che la maestra Donata insieme alla maestra Mariana hanno detto di portare 3 quaderni. E 2 a quadrotti e 1 a righe. Cioè? Scusa, ma i 3 quadernoni sono i quadretti? No, sono 2 e 1. Sì. Cioè, voglio dire, i 3 quadernoni sono i 2 quadretti? Sì. Sono lo stesso? Sì. È lo stesso. Sì, sì, esatto. Come sarebbe i quadernoni e 2 quadrotti e 1 a righe? No. Giusto, giusto. Io due penso che, non lo so. No. È giusto? I due... Sì. I 3 quadernoni sì. Sono 2? Sono altri 2. Quaderni, non no. Sono i quadrotti. No, no, no, sono... Non lo so, mo. No, ho capito adesso cosa intendeva dire. Cosa intendeva? Dopo anni che gira questo audio, ho capito adesso. I quadrotti era un altro modo di chiamare magari i quaderni. Bravissimo. Cioè, lei si è confusa perché si pensava che dicendo quadrotti fossero esatto altri quaderni. No. Vi ricordate quando li chiamavamo quadernoni? Quadernoni, certo. Sì, anch'io li conosco come quadernoni. Quindi, signora, stia tranquilla, sono 3 quaderni sì. O quadernoni, sì. 2 a quadretti sì. O quadrotti. Boh, sì, esatto, che li sì. chiama lei quadrotti. Oppure è 1 a righe. Fine, basta. Sì, perché uno 2 per matematica e uno per italiano, bravo, filosofia, storia. I quadrotti sono molto più grandi però, Sono molto... Il quadrotto è più grande il quadretto del quadrotto. Hai ragione, dipende cioè, da alle medie, cioè alle elementari. Sono tipo 4 quadrati e faccio un foglio, quindi esatto, alle elementari usavi i quadrotti. Ma di che cazzo state parlando? Stai scherzando? No, perché poi c'è una cosa da 0,4 mm. No, guarda che c'è tutto uno studio sui quadretti. Gli amici che poi sono andati a studiare ingegneria, te la ricordi? La carta millimetrata. E si disegnavano, non so, le astronavi millimetrate. Comunque, oggi non parleremo di quaderni, quadrotti, come quadretti no? E righette. No, ma scusami, io farei una puntata solo sui quaderni. Per cominciare questa puntata dobbiamo cominciare così. Buongiornissimo! Caffè! Allora, oggi, come sta per avere la vena di Salmetti che sta per scoppiare, sì. Parliamo dei gruppi WhatsApp. Il luogo comune di oggi è che strazio questi gruppi WhatsApp. Io mi sono opposto fermamente al termine strazio, perché non si usa, che no, palle no, gruppi no, WhatsApp. No, bellissimo. Strazio. No, usiamo strazio. Difendi. No. Allora, sono già 2 puntate che facciamo questa cosa. Etimologicamente, strazio è bellissimo. Ma viene molto da, bella. Da distrazio, da vedi? Distraere, smembrare, esatto. Lacerare. Riprendiamo il latino, diamo due cose, per favore. Okay, e cosa fanno se non distrarci i gruppi WhatsApp o farci incazzare? Tra bravissimo. L'altro, gruppi WhatsApp o anche gruppi Telegram, insomma, metteteci quello che volete. Messenger, però, in buona sostanza, è in quanti gruppi WhatsApp noi siamo coinvolti? Io ho fatto un conto. No, io ho fatto un conto, vai. Allora sono su 12 gruppi WhatsApp, 4 di Telegram e 1 di Messenger. 4 sono tanti di Telegram comunque. Beh, c'è gente che ne avrà 65. Un tema, a parte il nostro gruppo off topic su Telegram, qual è uno dei tuoi temi? Ma non lo so, amici, robe nerd, c'è un gruppo di robe nerd, c'è un gruppo di amici, non faccio più il fantacalcio, un tempo c'era il fantacalcio, cioè robe abbastanza banali. Sempre su Telegram, anche il fantacalcio. Ah no, di Telegram, no, ce n'è uno di nerd, bravo, ce n'è uno proprio preciso su un tema nerd. Cioè? Vabbè, Dune, sta arrivando il nuovo film di Dune. Si può anche giocare, tra l'altro, di nerd gioca. Oppure tirando 18... i dadi si mettono i numeri nel gruppo e bravo. Si gioca e si mi va è fatto avanti. Venire in mente che una volta ho provato un gruppo WhatsApp per giocare di ruolo in WhatsApp. Bellissimo. Era una roba da matti perché dovevi bellissimo. Tirare i dadi con un'applicazione e poi sul gruppo rispondere e dire raga ho fatto 15, che succede? Che l'altro è un bellissimo gioco di fiducia. Sì, bravissimo. Però vero. Devo dirti che nel mondo nerd c'è molto rispetto delle regole. Se tiri un dado, quello è. Se no vieni ucciso in qualche... virtualmente muori, vabbè, comunque stiamo divagando. Allora, noi abbiamo chiesto alla nostra redazione allargata su Telegram, che trovate per chi avesse Telegram come offtopic_24. Sì. Cioè, tutti voi ascoltatori. Potete partecipare alla costruzione di questa puntata o delle prossime puntate partecipando appunto a questo gruppo. quindi ne avrete uno in più. Stai soffocando. Sì, sto morendo, sto effettivamente morendo. Però vabbè, capiterà qualcosa, certo, in diretta, cioè in differita, perché stiamo registrando e quindi sarà una puntata bellissima. Bellissima. Allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci un po' di audio WhatsApp, appunto, per dirci quanto odio nei gruppi, bravo, WhatsApp. Bravo, sentiamo Carolina, giusto? Sì. Vai. Allora, io li odio perché la gente ti può aggiungere indiscriminatamente senza neanche chiederti il permesso, perché ci, si manda di solito cose assolutamente irrilevanti come i buongiornissimo caffè, ecco, e persone false, sì, e quindi di fatto lo scopo per il quale sono stati creati poi si disattende sempre. Quindi provo idiosincrasia per i gruppi WhatsApp. Un bacio dalla vostra Carolina Ripa. Abbiamo la Carolina come ballando con le stelle. Però è vero, ha ragione Carolina, che spesso nascono i gruppi WhatsApp, pensateci ascoltatori, in cui c'è scritto questo gruppo WhatsApp è solo per dicono, solo per, e poi dopo due messaggi è la merda. Vabbè, tutto. I famosi gruppi dove mi raccomando, qua ci vendiamo e scambiamo solo i libri, no riassunti. Entra uno, scusate, qualcuno ha riassunto del libro, ma ragazzi abbiamo appena scritto, è la regola fissata in alto. È vero, è vero. Comunque è vero. I buongiornissimo caffè non sono il problema di questi gruppi, i veri problemi sono i video, cioè i video dei gattini che arrivano alla mattina. Ma non esistono più, esistono miliardi, amici italiani che siete all'ascolto, amici all'estero, amici che capite questa lingua, questo idioma che sto parlando. Se vostra madre manda nel gruppo Family il gattino che vi dice ciao, come stai? Ma come sei bello! Ma non esiste, dai. Ti voglio tanto bene! Vi giuro che esistono questi video, cioè il problema reale è questo qua. È un luogo comune. Il paese reale, i problemi del paese reale. No, questo è un luogo comune, mi sono rotto le balle, non esistono più buongiornissimo caffè. Noi abbiamo a che fare con bacheche Facebook di ultra sessantenni che inneggiano Mussolini e amano i cani, perché sono tutti così, amano Mussolini e amano i cani. A me spiace perché ama i cani, però per la leggenda famosa che Hitler aveva, amano Mussolini, amano Mussolini e amano i cani. Cosa? Dove viene questa leggenda? Ma li vedo ogni giorno per lavoro, però devo dire che hanno smesso con i buongiornissimo caffè, si sono evoluti, adesso parlano di terra piatta, terra cava, i roboti, 5G e Mussolini. Sai chi non ha mai smesso con i buongiornissimo caffè? Vai. La mamma di Beppe Salmetti. Dovrai, con la mia mente veramente sta carando offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei mai un cazzo fra. Dirà sta gente che non sente, però ti piace sul blanco. Mi vengo né coliche, bro, di che, ma ok. Non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai. Ti prenderò rosie che fa la. Allora, questa canzone ci è stata suggerita dal nostro, dalla nostra redazione allargata, che facciamo il mercoledì mattina e il venerdì mattina appunto su Twitch. Siamo live anche adesso e potete commentare, insomma, quello che state sentendo in questa redazione, in questa puntata. Con noi per commentare il luogo comune, che strazio questi gruppi WhatsApp. Io dirò sempre che palle. No, devi dire da oggi che strazio. Che strazio. Che distrazio. Che distrazio. Valeria Montebello. Ciao Valeria, buongiorno. Ciao. Ciao. Buonasera direi. Dato buonasera, che andiamo in sì. Sono distrazio anch'io sono. Giornalista, scrivi per Il Foglio, per Rivista Studio. Valeria, ciao intanto. Bentornata Off Topic in realtà, perché sei già stata nostra ospite. Sì, ciao. Sì, sì. Senti, oggi in realtà facciamo un po' un bestiario dei gruppi WhatsApp, perché appunto i nostri ascoltatori si sono dilettati a mandarci diverse tipologie di gruppi WhatsApp. Però la prima cosa che mi viene in mente, come ha fatto anche Alessandro, tu in quanti cavolo di gruppi WhatsApp o Telegram sei dentro? Hai fatto mai un calcolo? Sì, sì, l'ho fatto, sono molto sobria io, cioè non ho gruppi WhatsApp, mi elimino da quasi tutti i WhatsApp, i gruppi WhatsApp, però ho quelli di lavoro silenziati, però comunque quando li silenzi ti viene l'ansia perché vedi le notifiche che da 5 diventano 10, poi 340, tipo l'accumulo dei compiti e ti viene l'ansia, quindi la mia teoria è che i gruppi sono un ricettacolo di ansia e sensi di colpa, quindi meno ne abbiamo meglio è. Scusa, sensi di colpa se non li leggi, intendi? Sì, perché dici oddio, sono indietro, cazzo, cioè hanno scritto 350 cose e io sono indietro, le devo leggere tutte, quindi vai lì e scrolli e leggi e poi la lasci di nuovo silenziato e diventano di nuovo 340, è tipo un'ansia, no? Quindi tu fai un po' di, cioè tu sei una che lurca un po'. Certo, l'urco per forza, sennò ogni tre secondi arriva una notifica, i gruppi di lavoro sono terribili, cioè non c'è modo di uscirne se non li silenzi. Però quindi già c'è una distinzione, ci sono alcuni gruppi di cui ti perdi 200 messaggi e te ne batti il belino, li fai correre tutti, non li leggi. Ma quelli di lavoro non puoi. Esatto, quindi invece poi altri, ma al di là di quelli di lavoro che vabbè te li devi cuzzare, però quelli di letto diciamo, ci sono anche quelli che invece quei 200 te li cucchi tutti per piacere, lo fai oppure skippi pure quelli? No, assolutamente no, l'unica cosa masochista davvero che ho fatto è durante la pandemia ho chiesto io di essere ammessa in un gruppo per iniziati, tipo di medici, scienziati, ma che scrivevano cose. Ma sì, no, infatti mi hanno fatto tipo una specie di test psicoattitudinale, cioè? Prima di entrare, cioè, mi hanno fatto delle domande, sei una giornalista, scriverai delle cose che stiamo per dire, dirai la verità, di la verità sul Covid, almeno no, tu, cose così. Allora no, sono curioso, la tua voglia di entrare in questo gruppo era per motivi professionali o per così stare? È sempre per qualcosa di malato, come sì, esatto, un'ossessione. Sono malata di mente, quindi dico ok, voglio entrare in questo gruppo, quindi comunque viene da malattia mentale o dal disagio. E quanti medici c'erano, scusami? Quanti medici c'erano? Tantissimi medici, poi c'erano tutti i numeri di questi medici, perché la cosa assurda nei gruppi WhatsApp è che sono i numeri del mondo, in pratica. È vero. Ed eri una delle poche pagane all'interno, diciamo. Ero l'unica pagana all'interno, quindi ovviamente io mi sono segnata i numeri di tutti i medici del mondo, cioè ho tipo una rubrica adesso dove ho tutti i medici. Galli, Crisanti, ma non credo, scusami, non credo sia legale questa cosa che hai fatto, tra l'altro. Non lo so, è al limite. Ah, ok. Ma è mai degenerata questa chat o è rimasta sempre molto seria? No, mai degenerata. Appena qualcuno degenerava, l'amministratore diceva: questo gruppo serve solo per scrivere cose che gli altri non sanno. Ma c'è allora, bravo. Questo in tempi di Covid, dato che comunque la scienza è scienza, però ci sono delle correnti di pensiero, ci sono alcuni scienziati che la pensano in un modo, altri in un altro, ci sono state... Si litigavano in continuazione. Eccola, vedi? Ma questa parte era la parte più divertente, perché il medico tedesco si incavolava col medico francese tipo una barzelletta. Nine, così era come essere nel dottor Stranamore attorno al tavolo, si mettevano a litigare tutti, bellissimo. Oppure come in Tom Cruise in Eyes Wide Shut, sei finita dentro una setta praticamente. Senti Valeria, allora noi abbiamo un po' di WhatsApp da ascoltare insieme, vorremmo commentarli con te, perché forse la categoria WhatsApp, ne abbiamo tantissime oggi, però la categoria WhatsApp interessante è quella dei gruppi per fare i regali, quelli che in teoria sono i gruppi WhatsApp che si autodistruggono appena finito l'evento storico, sono terribili, che poi nessuno li cancella alla poi fine. Lo cancello, no? Sai, poi lo cancello e poi non si cancella. Però tipo cimiteri nel telefono, esattamente, vedi questi gruppi senza più foto che diventano tristissimi, sono in coda, sono in fondo a WhatsApp, se scorri fino in fondo li trovi, al cimitero delle balene praticamente. Sì, sentiamo. Peggiore esperienza con un gruppo WhatsApp, 18° di un nostro amico, facciamo un gruppo per il regalo di questo nostro amico senza accorgerci che abbiamo messo dentro anche lui, non ce lo fa notare, non dice niente fino a quando non decidiamo la quota da versare per ognuno, circa 10€ in una decina di persone. Anche se ne esce con un "Begli amici di merda". Ragazzi, però scusate, è un deca di quei livelli. Vabbè, dai, un deca ci sta. Ma dai, però se un tuo amico stretto, no, spendi un po' di più. È un centello in totale. Io non sto a fare le pulce, no, anche se mi metto un 2€. Dipende dal grado di amicizia. Magari lui diceva: ma questi sono i miei più cari amici che ho. No, sei i tuoi migliori amici. No? Io apprezzo il pensiero. No, apprezzo il pensiero. E poi un deca è sempre il prezzo del regalo, dai, ragazzi. Ma sì, sempre 10€. Allora, se non è, se è un collega, 5, se è un amico, 10. Questa è la regola, no, Valeria? Esatto. Ma anche 3 se è un collega. Dipende dal collega. Baratto, ragazzi, se è un collega è il baratto. La rifa di Natale, cos'è? Avevo a casa un libro e lo rincarico. O se no non lo fai. Però sì, questo, se un questo... collega basta auguri con un emoji vicino e finisce la storia. Sei tremenda. A te è mai capitato? Vabbè, gruppi regalo sicuramente, ma qualche gruppi cosa... Sì, però... Questi gruppi regalo, la cosa paurosa è che diventano dei gruppi in mutaforma molto spesso. Esatto. Come il gruppo pizzata che diventa, cioè tu dici vabbè, lo accetto, il gruppo pizzata, la gente dice la sua, però poi dici vabbè, questa qua dopo la pizzata finirà, questo gruppo si distruggerà. Invece no. Il gruppo di pizzata diventa gruppo cena etnica, poi diventa gruppo capodanno, poi cambia il nome. Cambia il nome e continua in eterno, cioè il prossimo appuntamento culinario cambierà, esatto, e diventerà cena etnica. Allora, intanto arrivano un po' di commenti sulla live di Twitch. Ci scrive uno: immaginate un mondo dove non potete silenziare i gruppi WhatsApp. Beh, questo è pericoloso. Tra l'altro notizia di poco è che nella nuova release di WhatsApp si potrà silenziare ab eternum, quindi adesso c'è il massimo un anno. È come mettere degli amici nel cassetto, amici poi in realtà non sono amici. Esatto. E poi una fortuna che su Telegram si può condividere il contatto ma non il numero. Questo è un vantaggio, sì, di Telegram. E dopodiché, vabbè, poi c'è quelli, gli integralisti, che dicono: ah no, ecco, sarebbe la volta buona che passo al Nokia 3310. Questo potrebbe essere un luogo comune, esatto, per noi. Con Snake, ragazzi, ve lo ricordate? Sul cellulare. Lo dicono tutti. Lo dicono tutti. Ah, quando c'era il Nokia, però nessuno con il Nokia in mano. Ma quindi quando dicono quando c'era lui, si riferiscono al Nokia. Non avevo capito io sta cosa. Che sei bella. Valeria, scusami, voglio chiederti una cosa, perché io e Ricky siamo due persone che tendono a litigare dal vivo. Sì. Tu litighi più in chat o di persona? No, vabbè, io ti dico di persona, ma che in chat proprio esco, silenzio e me ne vado. No. Sei sicura? Di la verità, dai, ti sarai incarognita ogni tanto su chat. Ma sicuramente non nei gruppi WhatsApp, davanti a tutti, no. Però in chat, vabbè, in chat privata sì. In chat privata sì. Comunque a me è capitato, adesso parliamo di quando ti mettono coattamente dentro i gruppi con un altro nostro WhatsApp, a me è capitato invece di andarmene da un gruppo perché ho imprecato e mi hanno fatto la ramanzina perché ho imprecato, dicendo non si fa. Il problema è che ho imprecato perché hanno parlato di ostensioni della Madonna, di Gesù Cristo coi baldacchini per 25 ore e non era un gruppo di ipercattolici, era un gruppo di amici. A un certo punto mi sono permesso di non so di neanche dare se ci fosse, c'era un cattolico all'interno, ma io ero in questo gruppo e non so neanche se quindi, ci insomma, fosse, ho imprecato e mi hanno cacciato. È una cosa geniale, cioè è una cosa da fare sempre. Quando uno vuole uscire da un gruppo deve fai dire qualcosa di terribile, esatto, o ti bannano oppure escono tutti. E invece questo una volta, sì, a te è successo? Di dire una cosa terribile, sono tutti usciti dal gruppo. Cioè, non mi hanno parlato, sei rimasta in un gruppo da sola, scusa. Ma che cosa hai detto, se si può dire in radio, evitando una cosa molto sessista, erano tutte donne, quindi si sono arrabbiate. Mamma mia, ti prego, ragazzi, se si può dire, che contenuto era? Viva Dio, sentiamo un contenuto sessista da una donna. Vai, di vai. Solito siamo noi sessisti, no? Abbiamo una base da sessista per caso, maestro Roccabella? Parlava di una che sosteneva di essere stata molestata e io ho detto: guarda, non mi sembra una molestia, cioè a me piace quando i tipi in metro mi toccano il culo. Come ci aveva detto la Natalia Aspesi a noi, esatto, due anni fa, un anno fa, esatto, ci diceva: io quando ero giovane, forse no, gli tirava lo schiaffone, Natalia, non mi ricordo. No, penso che si avvicinasse lei stesse un po' così, poi a un certo punto si sono girati 5 minuti, gli però sì, un po' era indulgente, era un po' indulgente. A te non dà fastidio, sì. Ma l'occhiata, scusami, invece, quando ti guardano, tu stai camminando, ti guardano. Ma mi guardassero, cioè. Quindi sei contenta? Se fischiano? Se fischiano, fischiassero, cioè non è una... Scusami, ma la ragazza molestata era all'interno della chat? La ragazza molestata era molto sensibile, cioè era molto provata dalla situazione, cioè in metro uno si era appoggiato in pratica. Ah, ho capito. Quindi lei si è sentita molto male, ha sentito il bisogno di dire in questo gruppo WhatsApp, okay, che il mondo fa schifo, gli uomini fanno schifo, lei sta piangendo, e io ho detto: guarda, non ti agitare così tanto, cioè non è così grave, e quindi... L'ho detto in modo un po' brusco e quindi la situazione è degenerata. Presto sono tutte uscite dal gruppo e mi hanno lasciata lì come una... Però, scusa Valeria, però prima hai detto che era una toccatina, adesso siamo arrivati a gliela appoggiata. Esatto, cioè sono due cose, narrativamente sono due cose diverse. Comunque vabbè, sei stata delicata come un'elefantessa in una cristalleria. Detto questo, il gruppo WhatsApp in cui ti buttano dentro forzatamente, un nostro amico ci ha mandato questo. Il gruppo WhatsApp più assurdo nel quale sono capitato è stato quello creato dalla piscina alla quale ero abbonato con 1000+ iscritti tra piscina, palestre varie e quant'altro, in cui venivano mandate le comunicazioni sui possibili rimborsi. In questo gruppo gente scriveva di tutto, da mandami foto a compro auto e neanche potevo uscire perché chiaramente io dovevo sapere quando e come mi avrebbero rimborsato l'abbonamento. Invece sono rimasto 2 mesi intrappolato con una frequenza di più di 100 messaggi ogni 3-4 ore da scrollare e leggere, perché se scriveva la piscina, insomma, ero fregato. Poi la cosa migliore sarebbe stata creare il canale, perché WhatsApp adesso finalmente ha copiato i canali da Telegram e quindi scriveva solo la cazzo di piscina, e invece no, porca miseria, sempre questi approcci cinquantenni buongiornisti Simo ai social Caffè, ecco, e a tutto ecco, che tecnologia. Ragazzi, comunque a me ricordava Aldo Fabrizi mentre parlava, non so perché. Qualcuno però, scusate, gli serviva una macchina. Cioè, poni in caso che sei in sto per gruppo, andare, no? In piscina. Per andare in piscina uno era a piedi, sì, ma la macchina. Beh, effettivamente te lo vedi a scrollare 200 messaggi inutili e poi una riga. Il vostro rimborso sarà erogato, non sarà effettuato. Non sarà effettuato. Dopo che hai detto 300 messaggi, non ti danno i soldi. Esatto. Beh, però effettivamente c'è il dramma, altro luogo comune, sì, dei 60, 70 anni, 50 anni in chat. Ormai 60-70 anni, perché 50 anni si sentono dei ragazzini, quindi sono, è come vero, noi, praticamente. Sapete l'altro dramma qual è, Valeria? Che non abbiamo ancora toccato un po' il convitato di pietra. Sono i gruppi WhatsApp dei genitori. Ed una nostra ascoltatrice, Elisabetta, ci ha mandato questo WhatsApp. Dunque, le chat genitoriali, come ben si sa, sono il male assoluto. Nel senso, sono una fucina di problematiche, di polemiche, soprattutto di lamentele, e ci partecipano sempre le stesse persone. Io però attenzionerei le cosiddette sotto chat, quelle che si creano tra affini unicamente per commentare le chat e maledire i soliti delle grandi chat. Ecco, ci farei uno studio sociologico. Allora, ad esempio, noi abbiamo la chat di off topic. Facciamo la chat di off topic, poi faccio una chat di io e Andrea che parliamo male. Ma visto Ricky e Beppe cosa poi fanno? Tu, scusa, Ricky, vorrei farti notare, no, caro boomer, che la chat tra te e Andrea è il canale, è semplicemente, sì, cioè, è non è una chat, è, ma no, va bene, amori miei, però stavo scherzando. Il microgruppo bullizza, invece, è divertente perché appunto c'è il sottogruppo che bullizza il gruppo gigante. Ma commento del commento del commento. A te, Valeria, scusa, la domanda è: hai mai sbagliato chat in cui hai scritto una cosa tipo Carolina è una stronza e in realtà volevi scriverlo a una tua amica, l'hai scritto nel gruppo dove c'è anche Carolina, dici porca putta, devo cancellare subito? No, ho fatto un errore peggiore, ragazzi. Cioè? Hai mandato un nudo? Ho mandato nel gruppo della mia famiglia, perché io ho un gruppo di famiglia. Sì, male. Ho mandato al gruppo di famiglia la foto di un pene che dovevo mandare nel gruppo delle mie amiche, dove ci mandiamo le foto dei peni. Ma vabbè, ecco, ragazzi, ma hai vinto. Non sto scherzando. E reazione? Live reaction? La reazione è che io l'ho cancellato e l'ho eliminato per tutti immediatamente, però mia madre, siccome è il salvataggio automatico delle foto, alla mia madre è rimasto quindi crisi familiare. Poi mi ha detto che era una gif ludica, che non era qualcosa di reale. Ludica, hai aggiunto la parola ludica una per discolparti. Perché scusami, il pene che ti è arrivato poi era una gif o era una foto? Cioè si muoveva? No, era una foto. Io ho un gruppo con delle mie amiche in cui ci mandiamo le foto dei peni che ci arrivano sui social per non essere passive nei confronti di queste. E mi pare una bella iniziativa, innanzitutto. Esorcizzate il maschilismo imperante sui social. Brava. È giusto. E poi c'è anche scritto un pezzo su Il Foglio, mi pare, se non ricordo male. Pene d'amore perduti, giusto? E mi pare che avete fatto anche una specie di gara, davate i voti a questi peni che vi arrivavano gara. Cioè, noi ci arriva un pene, noi lo mettiamo immediatamente su questo gruppo con nome, cognome, una piccola bio, e quindi abbiamo una specie di enciclopedia dei peni italiani. È bellissimo. Siete delle bibliotecarie. Allora, Valeria, io lancio questa cosa, non so in termini di privacy come si cognome. Può fare, però Off Topic sponsorizzerà una mostra di Valeria Montebello e delle sue amiche dedicata a questi direct message bellissimi. Se ci pensi bene, se vende questa chat ad Agospia ci fai soldi. È davvero interessante questa chat, c'è davvero di tutto, perché poi ci sono politici, giornalisti. Ma come puoi? Ma certo, ragazzi, io amiche, amiche di un certo tipo, poi ho gente normale, però c'è tutto, cioè di tutto. Allora, Valeria, grazie mille di essere stata con noi. Valeria Montebello ha abbandonato questo gruppo. Faremo un gruppo WhatsApp insieme. Grazie, Valeria. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere i nostri social. Andate su Instagram, offtopic24. Mi raccomando, vi aspettiamo lì. Scriveteci in direct e vi rispondiamo. Non mandateci altro. No, basta quello che c'è. E poi il gruppo Telegram, la redazione allargata, offtopic_24. Venite con noi, decidiamo i luoghi comuni e ne parliamo, eccetera. Oh, raga, io sto per morire, non so perché. Ah, quando c'era il Nokia. No, quando c'era il Nokia. Ciao. Ciao. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba.